La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Oggi ci sono le elezioni e siamo tutti in attesa di vedere quali orrori o quali speranze usciranno dalle urne. Ma non se ne può parlare. Allora ripieghiamo su un commento di cronaca leggera, Sanremo. Però qui al Faro non ci riesce proprio di essere attuali. Per una volta che parliamo di cronaca è già passata. Dopo una settimana Sanremo è già lontanissimo, è già il festival dell'anno scorso. Sanremo è una delle buone cose di pessimo gusto, come l'oretto impagliato o il busto d'Alfieri del Gozzano, mi ha sempre annoiato e l'ho sempre trovato inesplicabile. Non sono mai riuscita a vederne uno intero, nemmeno questo, però stavolta l'ho guardato con una benevolenza nuova, perché con quello che c'è intorno, questa crisi tremenda e in ancor più tremenda campagna elettorale, le promesse offensive dei politici, questo fulmine fin troppo simbolico che ha colpito San Pietro, il Papa si dimette, dal cielo piovono meteoriti. Insomma, in tutto questo il festival mi è sembrato così innocuo, quasi sensato. La Littizzetto, oltre che talento, ha grazia. Non è solo comica, irradia simpatia, irradia innocenza. Fazio è un maggiordomo impeccabile, è un perfetto baudo moderno. Insieme sono rassicuranti, ricordano Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, una vecchia coppia che si rinfaccia sempre le stesse cose. Lei gli dice che ce l'ha piccolo, con questo probabilmente aumentando la soddisfazione di una vita sessuale magari ottima di Fazio, anche se è l'ultima delle nostre curiosità. Comunque, stavolta Sanremo l'ho guardato con indulgenza e mi è piaciuto molto quando hanno ricordato i festival del passato, come si ricorda la moglie morta, perché l'essenza di Sanremo è essere vedovo di un'epoca, di quando l'Italia era televisivamente monogama, c'era un canale solo, e mi è piaciuto tutto, anche l'assatanamento ironico e simulato della Littizzetto, che tratta i maschi come loro trattano noi, ma in più con affetto. E poi sono stata illuminata da una bellissima canzone. Sono diventata una seguace di Peter Sincotti, che è bellissimo, con quella faccia da ragazzo degli anni 30, è identico a Boris Vian, lo scrittore surrealista pazzo del jazz che morì a 40 anni. Anche Simona Molinari e Soave ha una bella voce. Insomma, erano insieme qualcosa di bello da vedersi e da sentirsi. Musicalmente deliziosi, originali, e la loro canzone Felicità, almeno con me, ha vinto. Io la mattina già mi sveglio stanca, avvolta da una sorta di indolenza. Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sono innamorato della mia migliore amica da quasi 4 anni ormai. Lei lo sa, gliel'ho confessato anni fa, ma come un vigliacco non ho lottato per lei. All'epoca lei era fidanzata, io mi consumavo in silenzio. Dopo un po' non ce la feci più e quindi le dissi semplicemente che sapevo di non avere alcuna chance con lei e che per il mio bene, per il non dover continuare a soffrire, era meglio allontanarci un po'. Decisione che più tardi ho rimpianto. Dopo i primi 2 anni di imbarazzo ci siamo riavvicinati e abbiamo riallacciato quell'amicizia che è diventata molto più stretta e affiatata di prima. In questi anni mi sono illuso di essere andato oltre, di averla dimenticata da quel punto di vista. Lei nel frattempo si è rifidanzata e sembra che questa storia sia molto più seria rispetto a quella di prima. Ma da un paio di mesi mi sono reso conto che non l'ho dimenticata affatto e che sto ricadendo in quella spirale di sofferenza che aveva messo fine alla nostra amicizia anni fa. mi ritrovo al punto di partenza, con l'ansia di perderla un'altra volta e la consapevolezza di non poter continuare così. Secondo te, cosa devo fare? Devo rischiare il tutto per tutto e sperare che vada bene? Francesco. Ma, Francesco, il punto non è dirglielo. Non è una dichiarazione delle tazze, cioè non è che basta farlo. Le parole che userai contano molto poco. Conta cosa passa davvero fra voi. Il punto non è dirlo, il punto è coinvolgerla. O c'è qualcosa fra voi o non c'è. E d'altronde, sai, per te, lo sai meglio di me, è molto difficile rimontare da anni di silenzio paziente. Il fatto è che tu non hai alcuna confidenza con lei. Cioè, l'hai amata fra te e te, sempre fingendo amicizia, e quando le hai detto «me ne vado perché ti amo troppo», ti sei presentato subito come sconfitto. Non è che hai detto «io ti amo, mettiti con me». Hai detto «so di non avere alcuna chance con te». E lei ti ha lasciato andare via. Perché anche se avesse provato un barlume di quello che provavi tu, sai, è difficile trattenere uno così rassegnato, che uno che arriva già col piede sulla porta, che si presenta per essere respinto. Anzi, che si respinge da solo. E che in un certo senso decide per lei. Poi siete tornati amici e tu continuavi a essere pazzo di lei. Lei lo sapeva benissimo, come lo sa adesso. Qui si tratta di tentare lo spericolato salto mortale. Cioè di passare da eterno innamorato rassegnato al più affascinante degli amanti. Se c'è una possibilità per te, è investirla con la passione e non col ragionamento. Il punto è questo, forse voi due state insieme da tanto tempo senza dirvelo, in forme strane, in forme inconsuete, e se ti presenti ancora da battuto in partenza non ci sarà più speranza. Lei lo sa che la vostra amicizia è una finzione, ma fino a che punto lo sa? Sai, questo dipende da come sei fatto tu. Se sei così soltanto con lei o se è il tuo carattere, ovvero se sei uno che si lascia passare davanti la vita per discrezione. Io, sfavorevolissima ai trucchi, lo sono molto al teatro d'amore, alla rappresentazione di un fatto inventato per suscitarne uno vero. L'uomo più importante della mia vita, che credeva di amare un'altra, me lo sapevo che la nostra non era un'amicizia. E allora tentai un colpo di dinamite, e cioè inventai una partenza improvvisa, un'assenza di 2 anni dall'altra parte del mondo. Sai, avevamo 20 anni, 2 anni sono tanti. E a lui cascò addosso all'improvviso la consapevolezza di quello che provava per me, e mi disse la frase che avevo sognato nella mia spericolata messa in scena: e io adesso come faccio? E dopo poi ne abbiamo riso insieme, e lui si divertì moltissimo della mia invenzione, perché mi voleva bene. Quindi scusa la banalità, ma ingelosirla, inventarsi una passione repentina per infrangere il teorema per cui puoi amare solo lei, uno scherzo di un attimo per vedere che faccia fa, e poi vedere. Ho ricevuto una lettera di un ragazzo che è stato stuprato e ne ha delle conseguenze gravi che insistono nella sua vita anche adesso che ha 28 anni. Non posso leggere la lettera perché l'ascoltatore non vuole che sia conosciuto il caso, però mi dice: non hai mai toccato il tema della guarigione dallo stupro. Caro ascoltatore, io non ho mai toccato questo argomento perché non ne so niente e credo che potrei fare soltanto danni. Il tuo caso mi intimidisce, come altri, non ho gli strumenti per risponderti. E quindi, dato che ho ricevuto anche altre lettere che mi chiedono di questo argomento dello stupro, tema scottante e difficile, ho invitato Umberto Silva, presidente dell'Associazione Psicoanalitica di Padova. Lui e Sonia Ferro, sua moglie e sua compagna di lavoro all'Associazione Psicoanalitica di Padova, sono tra i pochissimi da cui andrei se stessi troppo male per riuscire a soffrire da sola. Perché sono saggi e sono inclini a interessarsi del prossimo e sarebbero 2 curatori anche se non fossero psicanalisti. Poi hanno anche gli strumenti ed è meglio. Quindi c'è in linea Umberto Silva. Umberto? Sì, sono qui. Ecco, ti abbiamo chiamato, sì. E ti ringrazio per esserti prestato a risponderci, sì, su questo argomento. Dunque, nel caso degli stuprati, che è uno dei crimini più terribili, perché lascia un segno fortissimo, non dico indelebile perché c'è sempre speranza, ma comunque una cicatrice che si incide violentemente nello psichico di una persona, soprattutto se era un ragazzo o una ragazza. In questi casi parlarne pubblicamente è molto difficile, perché si rischia di cadere nella facilità, quando invece questo argomento richiede un massimo di impegno proprio per la grande difficoltà che propone. Pertanto hai detto che non puoi parlarne, così io penso che neppure uno psicanalista può parlarne in TV o la radio, può dire qualcosina ma non di più, guai se cade nella facenza, rischia di ripetere a sua volta uno stupro, di diventare a propria volta uno stupratore, aggiungendo all'atto criminale la volgarità esibizionistica di un vanitoso, di un sapientone. Potrei invece dare un consiglio agli stuprati, ma anche qui posso dire che un dolore non può essere condiviso e che dalla scena del trauma si possono trarre gli elementi di una elaborazione per uscire dalla ripetizione e incontrare il desiderio, che questa è la questione importante. E questo si può elaborare in un percorso analitico. Cosa accade? Accade che lo stuprato smetta di sentirsi lui il colpevole della violenza subita, perché questo succede. Lo stuprato, che non ha nessuna colpa, è la vittima, purtroppo a volte viene il senso di colpa e si sente lui colpevole della violenza subita. Allora il percorso è proprio abbandonare questa vergogna che gli subentra e tornare a riappropriarsi del proprio desiderio e del proprio destino. L'ascoltatore che scrive ha questa sorte terribile, invece che trarre dallo stupro gli elementi, come dici tu, per uscirne, invece ci entra sempre di più, in quanto che anche il suo desiderio sessuale è totalmente influenzato dalla eterna ripetizione di quella violenza subita. Questo proprio, che deve riacquistare il desiderio, gli è passato il desiderio e in qualche modo si sottomette ancora una volta incessantemente al desiderio delinquenziale dello stupratore. Invece occorre che formuli il proprio desiderio, un altro desiderio che sicuramente ha, no? E che al quale ha abdicato a favore del desiderio perverso dello stupratore. Quindi continua all'infinito ad essere stuprato. Però può uscirne, io non credo che ci sia una condanna eterna, credo che proprio perché è stato così vittima e ha sentito così questo dolore, ancora percepisce questo dolore, il dolore stesso lo può aiutare a uscirne. Certo ci vuole un percorso analitico possibilmente. È la stessa vittima, no, che deve avere il coraggio, l'audacia di mettersi in questo percorso. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Io credo che sia impossibile conteggiare quante opere siano state scritte sul nazismo. Resta esemplare il film di Hans-Jürgen Silberberg, un regista prussiano vivente, nato nel 1935, che nel 1977 realizzò un film su Hitler che dura più di 7 ore e non c'è un minuto di troppo. Uno dei più grandi film mai girati. Un film che ebbe tutti contro, fu boicottato in Germania e non solo, e ancora oggi, pur essendo rimasto nella storia del cinema, è quasi ignorato, ovvero non riproposto al grande pubblico. Con l'eccezione di Ghezzi in Fuori Orario, che 10 o 15 anni fa lo mandò in onda, è un capolavoro con un linguaggio filmico di un'audacia visionaria e di una forza poetica senza uguale. La lezione del cinema c'è tutta, a partire da Griffith. E nell'impianto teatrale il regista si riferisce a Brecht, come ha scritto Morando Morandini, e proprio il film è un oratorio brechtiano. E c'è una ricchezza di invenzioni e di contaminazioni, da pezzi di cinegiornale al teatro delle marionette, movimentatissimo. E l'attore che muove fra gli altri il pupazzo di Hitler dice nel film: il nazismo, che grande, triste affare per l'arte. Non c'è fine all'ispirazione sul nazismo. perché resta il grande enigma, la grande macchia nella storia dell'uomo, l'avvenimento più allarmante circa la nostra natura. L'uomo ha sempre sterminato l'uomo da quando è apparso sulla terra. Fra i mammiferi, nessuno come l'uomo ha il gusto di uccidere, il piacere di uccidere. Però, fino al nazismo, con mezzi artigianali. E invece, l'apoteosi dell'era industriale è questa. Per la prima volta, con l'avvento di Hitler, lo sterminio viene trattato come una produzione industriale. Si mette su un'organizzazione perfetta che produce la morte, con un puntiglioso calcolo economico. Nulla viene sprecato. Dalle unghie ai capelli, tutto ha una sua ragione commerciale. Il corpo umano viene trattato crudamente come materia di sfruttamento. E nei campi di sterminio si incontrano due epoche storiche. Mentre si dà il via libera alla crudeltà più barbarica, alle invenzioni più atroci, intanto dei volonterosi contabili con la penna dietro l'orecchio calcolano, ad esempio, che i forni non costino troppo, che l'imboccatura sia piccola per consumare meno. E geniali scienziati studiano esperimenti terribili su quelli che sono solo corpi, proprietà. E tutto questo nell'indifferenza, in fondo, nell'acquiescenza. Molti sanno, ma fanno finta di non sapere. E quelli che non sanno, magari sospettano, ma non vogliono andare in fondo. Pensano che non toccherà loro. E finché capita agli altri, chi se ne importa? Ecco cosa dice Silberberg parlando del suo film su Hitler. Noi non mostreremo la realtà, che è irripetibile, come neppure il dolore delle vittime con le loro storie private. Non mostreremo neppure la storia come è stata rappresentata nei libri, o i grandi affari all'insegna della morale, dell'orrore, della paura, della morte, del pentimento, dell'arroganza e di una legittima rabbia. Si parlerà di guerra e di sterminio razziale. Auschwitz come campo di battaglia di tutte le guerre di razza. Si tratterà di scoprire il colpevole universale, anche perché cosa sarebbe stato Hitler senza di noi? Silberberg dice questo nel 1977. Sono passati quasi 40 anni in cui sono uscite un'infinità di opere sul nazismo, dove accanto al Ciarpame vi sono anche dei lavori sublimi. E allora che cosa si può dire ancora? Si può all'infinito. C'è un importante scrittore italiano, Alessandro Golinelli, che ha scritto un breve romanzo, L'amore semplicemente, pubblicato da Frassinelli, dove troverete una visione del tutto inaspettata e molto vicina a quella frase di Silberberg: che sarebbe stato Hitler senza di noi. In questo libro i nazisti sono la gente per bene, il vicino che chiude le finestre quando ti portano via l'SS, quelli che raccontano barzellette sugli ebrei o gli zingari o gli omosessuali, i complici passivi dello sterminio che al momento buono sono prontissimi a diventare attivi. E quando nel romanzo di Golinelli i prigionieri russi riusciranno a evadere, saranno loro, queste brave persone, a trucidarli o a consegnarli al boia. Le brave persone che si fanno i fatti loro in attesa di farsi quelli degli altri in maniera feroce. Anche nel caso di Golinelli, L'amore semplicemente, vi prego, non fate caso alla copertina e al titolo, perché per un mistero del quale non mi do ragione ci sono schiere di grafici e di titolisti con una missione: non far capire ai lettori di cosa parla quel libro, anzi far intendere il contrario. Forse per dare più soddisfazione al momento che si riesce a scoprirlo comunque, e più gioia nell'accorgersi che era un libro che bisognava leggere. Io conosco Alessandro Golinelli da quando esordì con Basta che paghino, una vera esplosione di libertà, di spregiudicatezza, di verità, una storia di prostituzione maschile che lo riguardava personalmente, che era la sua storia, che uscì nel 1992 con Mondadori. E fu la rivelazione di questo scrittore generoso e mobile negli interessi, che sono i più vari, da Come ombre alle rondini di Tunisi. Golinelli è quello che una volta si sarebbe chiamato un rivoluzionario, nelle idee, nelle scelte, nella scrittura. Lui mi parlò di questo libro mentre lo stava scrivendo e aveva due titoli. Uno era I padroni del sabato e l'altro I giardini di Mauthausen. Due titoli vasti, immaginosi e pertinenti. Adesso si chiama L'amore semplicemente, che non è campato in aria, perché il libro è anche questo, però lo astrae dal suo contesto, che è poi quello che decide la forma di questo amore. L'amore semplicemente è la storia d'amore di una ragazzina austriaca e di un prigioniero dei nazisti, un ragazzo anche lui, nel 1945, quando la disfatta nazista è vicina e sarà il momento dei più frettolosi e spaventevoli stermini da parte dei tedeschi, con tutta la rabbia della sconfitta e anche la furia di eliminare i testimoni. Il nostro è il tempo della moltiplicazione. E allora cosa facciamo per dare nell'occhio? Ci mettiamo di più ingredienti che si può. Colpire per eccesso. Ecco, questo libro fa il contrario. Qui tutto è fatto di sguardi. Il massimo che riusciranno a fare i due innamorati sarà una fugace stretta di mano. E questo amplifica in modo intollerabile le emozioni. Siamo in Austria nel 1945. Anna Hölder è una brava ragazzina che ha la passione dell'erboristeria, perché ama e conosce le piante. Vive in un villaggio a sud di Mauthausen e vede spesso colonie di prigionieri che vengono obbligati a lavorare nelle fattorie. Non se n'è mai interessata e non sa niente della macchina di morte che si muove a pochi chilometri dalla sua casa e non immagina neanche le condizioni disumane dei prigionieri. Lei ha un'amica, Ingrid, una ragazza benestante, ha una madre severa, un buon padre e un fratello, Jürgen, che è un nazista fanatico. Un giorno Anna si imbatte in un gruppo di prigionieri sorvegliati dai nazisti e lei di solito tira via perché ha paura dell'SS, perché si sa che importunano le ragazze e lei ne ha paura. E ha paura anche dei prigionieri. Però incontra lo sguardo di uno di loro, un giovane russo di 17 anni. E da quel momento non possono scambiare, non dico una parola, ma neanche insistere nello sguardo. Ma ecco, come dice il titolo, da quel momento è l'amore semplicemente. E la metamorfosi è immediata. Anna, che finora è stata una ragazza timorata, obbediente e non si sarebbe mai sognata di discutere l'ordine delle cose, da quel momento scopre di non avere paura di nessuno, nemmeno di morire. E ogni suo gesto e pensiero avrà un solo movente: rivedere questo ragazzo che non conosce, di cui non sa il nome, ma che passandole accanto ha lasciato un odore di sambuco. E lei distingue molto bene gli odori delle piante. Dopo l'incontro col ragazzo, da quella sera, lei prega la Madonna anche per lui e, non sapendo come chiamarlo, gli dà l'unico nome russo che conosca, Piotr. Intanto confessa alla sua amica Ingrid questa storia. Beh, l'altra si indigna, dice: ma va, ma come fa a piacerti in un internato? E poi sono i nostri nemici. Insomma, dice molte ragionevoli cose contro questa storia pericolosa. Però, quando vede che niente può cambiare i suoi sentimenti e la sua ostinazione a cercare di incontrare di nuovo questo giovane, lei ha il piano di trovarsi nei luoghi dove lo manderanno a lavorare, Ingrid allora l'avverte che la cosa può essere mortale anche per lui. Basta che un prigioniero parli con un civile perché lo mettono al muro. Ne hanno fucilati tanti per un saluto, per un cenno d'intesa con un civile. E Anna dice: ma se lo guardo soltanto non lo metterò in pericolo, no? E Ingrid sconsolatamente non si può disobbedire alle SS. È sì questa una storia solo di sguardi, ma quando uno sguardo può costare la vita. Il libro di Golinelli è una riuscitissima rappresentazione storica, ma anche una metafora dell'amore, del rischio dell'amore, quando c'è. Anna, per esplorare tutta la campagna e poter scoprire dove lui sta lavorando, riesce a procurarsi una bicicletta e percorre a tappeto tutti i dintorni cercando di lui, finché lo scopre. Sta alla fattoria di certi suoi mezzi parenti, gli Zögler, e riesce a vederlo. Ci sono i soldati coi fucili puntati, ma lei si sente come Giovanna d'Arco. Un angelo protegge ogni capello della mia testa. Quello che prova è più forte della paura. E col pretesto di raccogliere delle erbe medicinali riesce addirittura a trovarsi accanto al prigioniero. Non riescono a parlarsi, e poi in quale lingua? Ma lui, a rischio della vita, si avvicina e riesce a stringerle forte la mano sotto l'erba, e i soldati non se ne accorgono. Anna fa un disegno. Disegna un eleboro e una genziana intrecciati e sottoscrive Anna Piotr, con l'idea folle di riuscire a consegnarglielo. È un amore di carta quadretti coi nazisti alle calcagna. Anna Piotr, che invece si chiama Ilia, hanno tutti i tremori di un amore adolescenziale, ma con la morte addosso. Piotr, che come ho detto si chiama in verità Ilia, come aveva capito Anna, vedendogli trattare le piante, è un giardiniere e viene incaricato dagli Zögler di fare un giardino. E lui sogna di farlo bellissimo. Per lui diventa il simbolo dell'amore per quella ragazza sconosciuta. Ecco, non leggete questo libro se soffrite di tachicardia. Se siete di quelli che si identificano, si emozionano troppo, che si sentono male al cinema per la suspense, perché qui non si sta tranquilli un attimo. Sotto ogni gesto, sotto ogni sfumatura, si nasconde un'insidia. La scrittura così limpida, così piana, è una trappola da emozioni e nessuna delle emozioni dell'amore manca. La guardiana del faro. È in linea Alessandro Golinelli. Ciao Alessandro. Ciao Barbara. Allora, stavamo parlando del tuo libro L'amore semplicemente, e citando anche la frase di Silberberg, quando a proposito del suo film su Hitler disse: che cosa sarebbe Hitler senza di noi? E nel tuo libro c'è proprio questo. Devo dire che il libro è nato perché io stavo facendo le ricerche su mio nonno, che è stato in un campo di sterminio, non come Mauthausen, ma comunque in un campo di sterminio, e volevo informarmi sui campi di sterminio. E io credo che ci sia un po' un equivoco sul nazismo, cioè l'idea che il nazismo sia sorto come una specie di cosa malata, un cancro all'interno di una società però in realtà giusta, in realtà buona, e che sia sorto come una cosa da sola, che un gruppo di maniaci, magari sadici, che facevano queste cose completamente isolati dal resto del mondo e spesso e volentieri senza che neanche gli altri lo sapessero. In realtà no. Il nazismo è nato attraverso un processo che potremmo addirittura chiamare democratico, cioè comunque Hitler è stato eletto, non ha preso la maggioranza assoluta, ma è stato eletto e il Parlamento gli ha dato il potere. Quindi non è stato un golpe politico militare di quattro fanatici che hanno spaventato la popolazione, no, è stata qualcosa che ha avuto un consenso molto grande da parte della popolazione tedesca e anche da parte della popolazione austriaca, che è stata poi annessa alla Germania e che in qualche modo ha anche spinto per essere annessa alla Germania. Parlo dell'Austria perché Mauthausen è in Austria. Questo libro è nato proprio per confrontare non tanto l'esperienza dei campi di sterminio, perché io non ci sono fortunatamente stato e ci sono un sacco di testimonianze di persone dirette, libri splendidi come quelli di Primo Levi, per parlare in Italia, ma anche altri. Però era importante, secondo me, confrontare questa esperienza spaventosa dei campi di sterminio con la vita che si svolgeva invece naturalmente, tranquillamente, attorno a questi campi. Tra l'altro c'è da dire anche una cosa, che l'Austria è un paese che è stato poco toccato dalla guerra, perché la guerra l'ha toccato soltanto nel 1945, perché prima non è stato quasi neanche bombardato, e oltretutto le zone intorno a Mauthausen sono state bombardate poco perché gli americani e i russi anche sapevano che c'erano i campi e quindi cercavano di evitare di ammazzare i propri, insomma, ecco, visto che c'erano anche molti prigionieri di guerra nei campi di sterminio. Quindi cosa sarebbe stato Hitler senza di noi? Nulla, se non ci fossimo stati noi. E questa è la cosa veramente... E la politica dell'appeasement in alto e poi la complicità strisciante in basso. Sì, sì, la complicità strisciante in basso, la complicità strisciante di chi comunque riusciva a vedere sempre qualcosa di tornaconto da questa situazione, per cui intorno ai campi si vedeva questo come un tornaconto, perché i campi davano lavoro anche alle persone che c'erano intorno, perché i lavoratori dei campi sostituivano praticamente gratis i braccianti nelle fattorie che erano partiti per la guerra. Quindi in un secondo si accetta la schiavitù, si accetta lo sterminio, perché il nazismo poi in sintesi che cos'è? È il ritorno alla clava, come anche dice nel tuo libro. L'idea di Hitler è quella della natura, ovvero della bestialità assoluta, cioè basta, niente, questa sverniciata democratica ci casca di dosso, immediatamente diventiamo sterminatori del nostro vicino, strappatori di denti, basta che ci legittimino. Questa è la lezione terribile e imbarazzante. Sì, è questa secondo me, ed è questa ed è la grande domanda. L'altra grande domanda è: ma la cultura cosa serve allora? Perché in realtà il popolo tedesco non era un popolo ignorante, cioè non erano le masse contadine, diciamo, dell'Africa, che si possono facilmente manipolare oggi in alcune determinate situazioni. Era un popolo fondamentalmente comunque colto. Ci racconti l'episodio vero, storico, e poi la tua elaborazione in questo romanzo. C'erano un gruppo piuttosto sostenuto di prigionieri, di soldati russi a Mauthausen, e erano rinchiusi in una baracca, in una sezione molto molto molto dura, dove venivano spesso uccisi, dove non veniva loro dato cibo, dove venivano lasciati fuori all'aperto, nudi, a dormire, dove venivano bagnati con gli idranti e quindi ne morivano. Sì, tu racconti di queste statue di ghiaccio proprio con le quali si divertivano poi i soldati la mattina. I soldati la mattina. E invece a un certo punto, presi anche dalla disperazione, 500, quasi fra i 5 e 600, perché poi i numeri non sono sempre molto chiari, di questi prigionieri sono usciti, hanno tentato di fuggire dal campo di sterminio buttando giù le reti, approfittando della neve, hanno cercato di scavalcare il muro, presi completamente dalla disperazione, e molti sono stati uccisi durante il tentativo di fuga, ma moltissimi invece si sono, come dire, sparsi nella campagna circostante, si sono nascosti nelle fattorie, si sono nascosti nei campi, hanno cercato di raggiungere la Cecoslovacchia, che era già, all'epoca era ancora Cecoslovacchia, che era già liberata. Bene, di questi quasi 600 prigionieri ne sono sopravvissuti sicuramente 8, forse 12, questi sono i numeri. Questi 8 o 12 sono stati aiutati dalla popolazione, gli altri sono stati presi e riconsegnati all'SS, che poi li ha... O anche uccisi in persona. Uccisi direttamente dai contadini, che facevano delle ronde, delle fantomatiche ronde per prenderli, e li hanno uccisi se li hanno trovati in alcune situazioni, oppure presi... O consegnati al plotone di esecuzione. Se vogliamo dire nobilmente, perché sappiamo che poi... Esatto, ecco. E quindi da questo nascono Anna... Io ho cercato di raccontare questa storia proprio perché mi sembrava emblematica del rapporto fra nazismo e popolazione, e l'ho fatto attraverso gli occhi di due adolescenti. Quello che a me interessava particolarmente raccontare di questa storia era il rapporto fra due mondi così distanti, che non è una cosa comune soltanto al nazismo, poi in realtà, cioè a quel momento storico, cioè quest'idea che ci sia uno scontro fra mondi molto distanti come quello di una ragazzina di 16 anni austriaca, è un ragazzino di 17 anni russo, che in quell'epoca erano mondi distanti come noi e l'Africa. Come quelli di Giulietta e Romeo. Come quelli di Giulietta e Romeo, ma molto di più, perché comunque almeno Giulietta e Romeo avevano in comune una lingua, mentre loro non hanno in comune né una lingua, non hanno in comune nemmeno delle esperienze. L'unica cosa che li accomuna, e questo è importante, è un amore, cioè l'amore per le piante, che hanno, che è un simbolo anche dell'amore per la vita. La ragazza viene attratta da questo ragazzo non tanto per la sua bellezza, che c'è iniziale, ma perché lui fa un gesto, che è quello di non calpestare un fiore, che rappresenta, a mio parere, tre cose: l'istinto di salvare una vita, l'istinto di salvare la bellezza, e l'istinto sono i tre componenti fondamentali dell'amore. Cioè lui fa un gesto di amore e lei se ne accorge. Ed è la negazione di tutto ciò che è il nazismo. Esatto, cioè in quel contesto lei entra nel bosco, esattamente come Cappuccetto Rosso, incontra il lupo cattivo, che sono i nazisti, uno si aspetterebbe un gesto di cattiveria, e invece in quel contesto c'è un gesto di una delicatezza incredibile, che è quello di non calpestare un fiore, che fa anche un po' ridere ai giovani d'oggi quest'idea, no? Però in realtà è il simbolo di tutto ciò che c'è dietro. Ma nella barbarie ha un valore immenso, certo. Esatto, cioè è tutto quello che racchiude l'amore, cioè la possibilità di amare, no? E quindi lui fa una scelta d'amore, lei alza gli occhi perché se ne accorge e lo vede bellissimo, ma lo vede bellissimo perché lei è già preparata a pensare che chi ha fatto questo gesto è un'anima bella. Poi è corrisposta anche dall'età, dalla bellezza, cioè nasce questa specie di ossessione per lui, che poi la condurrà a conoscere, però, perché il gioco è quello che quando si ama si deve anche conoscere, quindi lei piano piano imparerà a conoscere non soltanto lui, ma tutto quello che è il mondo che lo circonda. Senti, noi parlando del libro lo abbiamo sconsigliato ai malati di cuore, troppo emozionabili, perché c'è un'attenzione in ogni pagina implacabile che accompagna tutta la storia. Sì, è un'attenzione del fatto che questo ragazzo è in un pericolo di vita costante, cioè che... E anche lei di riflesso, poi. E anche lei, naturalmente, di riflesso. Lei forse è anche più incosciente, quasi inconsapevole. Lei all'inizio non crede nemmeno che se gli parla lo possano fucilare, perché non ne vede un motivo, perché è una ragazzina ingenua che ha vissuto in una famiglia per bene, fra l'altro, cioè non è una famiglia di delinquenti la sua, e quindi lei non crede che sia possibile fare questo, non crede nemmeno che lui sia così in pericolo, se ne rende conto piano piano, e se ne rende conto in prima persona perché vede i mitra, vede il terrore sulla faccia di questo ragazzo ogni volta che semplicemente si guardano, lo percepisce, ha una grande sensibilità e quindi riesce a percepire questo terrore, e ne viene contagiata alla fine anche lei, ha paura, però è una paura indotta da lui. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.